Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Diego De Silva, ora in libreria con Mancarsi, pubblicato da Einaudi. Mancarsi è un po' un piccolo gioiellino, dico piccolo perché si tratta di un romanzo breve, sono un centinaio di pagine, ed è un gioiellino perché oltre alla bellezza della storia, in realtà si va al di là della trama stessa, perché la cosa più bella sono le riflessioni che fa l'io narrante su quello che accade ai due personaggi protagonisti di questo piccolo romanzo. I due protagonisti sono Nicola e Irene, un uomo e una donna che non si conoscono, però frequentano lo stesso bistrò. Nicola è rimasto recentemente vedovo, Irene invece è una donna con un rapporto di coppia in crisi. Allora Diego, innanzitutto come ti è venuta l'idea, del luogo, del bistrò come luogo d'incontro? Mi ha ricordato anche un po' ultimamente gli innamoramenti di Marias, dello scrittore spagnolo, ovviamente non c'è nessun plagio di mezzo, però insomma il bistrò, un locale, può essere un ottimo spunto per un romanzo. Beh, intanto quella con Javier Marias è una geometria casuale che mi inorgoglisce moltissimo, perché lui è uno dei miei scrittori preferiti, quindi l'idea così, di, come diciamo a Napoli, di averla cecata è una cosa che mi dà una grande gioia. Poi il bistrò mi sembra una location molto, molto tipica, no? Come luogo in cui due persone potrebbero incontrarsi così come mancarsi, che è un titolo che va inteso, diciamo, in tutta la sua ambivalenza: mancarsi sia come soffrire, cioè patire l'assenza di qualcuno che non c'è più, di cui si aspetta il ritorno, sia come sfiorarsi, quindi mancarsi proprio, quindi non cogliersi fisicamente, non incontrarsi, insomma, no? Come i due protagonisti, sì, aver mancato, infatti, un incontro. Il tema è quello del disincontro, appunto, cioè quante volte al giorno ci passa accanto la persona che potrebbe cambiarci la vita e non ce ne accorgiamo nemmeno, e soprattutto quante volte incrociamo la persona con cui sembra che potrebbe cominciare una nuova vita, ma la lasciamo andare via colpevolmente, no? Ti ricorderai Le passanti di De André, no? Esattamente, e infatti in questo tuo romanzo Mancarsi ci sono moltissime riflessioni. Dicevo prima, la trama c'è, è bella, ma può anche essere messa così da parte. Diciamo che la trama è lo spunto per fare delle riflessioni sulla mancanza, sulle relazioni umane, non solo d'amore, sull'amore stesso, insomma su come si sta al mondo al giorno d'oggi. Diciamo che se lo leggessero così dei ragazzini potrebbero ricavarne un sacco di status di Facebook, di frasi così lapidarie sul senso della vita. Ti dispiacerebbe la cosa? No, questo certamente no. Sai, però, come dire, l'aforismo è qualcosa a cui arrivi attraverso un vissuto. Riempirsi di aforismi non aiuta a comprendere la vita va vissuta, dopodiché ci sono delle cose che ti sembra di capire, allora a un certo punto acquistano una forma estetica, ma devono essere figlie di un lavoro proprio di narrazione, benché io mi ritenga più uno scrittore di situazioni che uno scrittore di storie. Come giustamente tu dicevi, la trama c'è, ma tutto sommato è un pretesto per discutere di sentimenti, di fallimenti, di relazioni, di abbandoni, di attese, insomma di mancamenti, appunto, cioè di tutte quelle condizioni che fanno parte delle relazioni sentimentali in cui ci invischiamo e ci giochiamo la vita. La trama, dicevamo, è relativa, così per dire, però parliamo, sì, di questi due personaggi. Allora, Irene, io l'ho descritta appunto come una donna che ha un rapporto sentimentale in crisi. Ci puoi aggiungere qualcosa? Sì, in realtà sia Nicola che Irene si trovano in una condizione assolutamente analoga, e infatti sarebbero fatti l'uno per l'altra, solo che non lo sanno fino alla fine del libro, in cui c'è questo momento in cui si vedono, ma non si sa, proprio perché in quel momento io faccio volutamente finire il libro, se la loro storia comincerà oppure se colpevolmente, per un'infinità di ragioni, uno di loro o entrambi lasceranno il campo. Bene, Irene è molto più responsabile della sua scelta di solitudine e dell'attesa di un nuovo amore, nel senso che quando Irene capisce che il suo matrimonio è finito perché non c'è più l'amore a sorreggerlo, denuncia questo fallimento e se ne va. e si lancia nella sua vita cercando di capitalizzare, no, sugli errori fatti. E Nicola invece viene da un lutto e, come spesso succede, però la morte si rivela anche un'occasione di rinascita per alcuni, no? Sì, cioè, la morte infatti è vista come liberazione quasi, e lui non ha paura, tutto sommato, ad indagare questo senso di libertà. Beh sì, a volte la morte fa queste sorprese, perché pur rimanendo una tragedia, però a volte rivela le contraddizioni dei rapporti in cui eri prima, no? E Nicola capisce, attraverso la morte della moglie, che comunque gli manca, di quanto lui fosse in realtà succube all'interno di questo rapporto, di quanto sua moglie fosse capace di dettare le condizioni della loro relazione e sostanzialmente di non lasciare che Nicola si esprimesse. All'indomani della sua morte lui si scopre però improvvisamente rilanciato in una nuova vita, può essere se stesso, può essere molto più autenticamente simile a come si percepisce, e in questa nuova dimensione autentica vuole cercare e possibilmente trovare un amore nuovo per essere se stesso con un'altra donna. Ecco, da questo punto di vista Nicola e Irene sono veramente due persone che dovrebbero soltanto incontrarsi, per cui a me è piaciuto, come dire, accompagnarli in queste brevi giornate dove la vita normalmente si svolge e dove si aspetta anche un po' illusoriamente, anche con un po' di fiducia, l'arrivo della persona che ci manca. In questo romanzo c'è anche un terzo personaggio, oltre ad Irene e a Nicola, che è Lio Narrante, perché Lio Narrante è lì, virtualmente in questo bistrò, li osserva e dalle loro storie fa una serie appunto di riflessioni. Le riflessioni che vengono fatte da Lio Narrante sono poi le tue. Beh sì, in questo senso sono stato un po' il cronista di questa storia che non si sa fino a che punto è mancata, e questo volevo che anche un po' farlo per prendermi una vacanza da Vincenzo Malinconico, che era il protagonista dei miei precedenti romanzi, proprio perché volevo tornare alla terza persona e guardare un po' alla vita degli altri, infilandoci dentro ogni tanto anche la mia, perché questo poi è inevitabile, no? Cioè la vita scappa e ogni tanto finisce tra le righe, te le trovi davanti e dici: oh Gesù, questo sono io. La scrittura proprio di questo piccolo romanzo, Mancarsi, è diversa rispetto, per esempio, come tu citavi, alla saga dell'Avvocato Malinconico. Mm-hmm. È una scrittura più ricercata, più meditata, perfetto ovviamente per un romanzo breve che prima definivo appunto un gioiellino anche di riflessione umana. È per questo che hai voluto modificare la scrittura? Beh, intanto, sai, Malinconico è scritto in prima persona e i libri di Malinconico sono dei libri sostanzialmente umoristici, c'è molto lavoro di scrittura anche lì, però è un personaggio che tende un po' a prevaricarmi, nel senso che quando io poi parlo attraverso la sua voce, siccome quello è un personaggio che guarda il mondo attraverso la lente del ridicolo, io tendo inevitabilmente a dover scrivere tutto così, è come intonare, no? Come accordare una chitarra in una tonalità anziché un'altra, inevitabilmente devi suonare in un modo. Adesso invece volevo, anche perché volevo toccare l'argomento dei sentimenti, diciamo, in una prospettiva che fosse nello stesso tempo romantica ma anche drammatica, diciamo. Sicuramente in Mancarsi non c'è la comicità o l'ironia che ci sono appunto negli altri tuoi libri. A proposito di Malinconico che citavi prima, ricordiamo la saga di Malinconico, Non avevo capito niente, Sono contrario alle emozioni, e l'altro, quello della suocera, non ricordo. Mia suocera beve. Ecco, Mia suocera beve. è un po' diventato il tuo protagonista seriale, insomma fa parte di una saga e sicuramente il personaggio con il quale tu sei stato, sai, maggiormente conosciuto fra i lettori. La domanda che si fa sempre agli scrittori che hanno un personaggio ormai seriale: che rapporto c'è fra te e Malinconico? È un rapporto molto stretto, insomma, ci frequentiamo tantissimo, spesso lui prende il sopravvento, anche in questo libro, insomma, ogni tanto mi scappa Malinconico. Per esempio c'è una pagina in cui io parlo dei molestatori di Irene, perché Irene, essendo una donna molto bella e frequentando questo locale, subisce, costretta, quasi condannata a subire continuamente le avance di questi imbecilli che si sentono in diritto, no? Questo, insomma, il destino delle donne veramente belle è quello di stimolare questo preteso diritto di chiunque a provarci a prescindere, no? E lì faccio una casistica dei tipi maschili che tendono di rimorchiarla, a partire da Johnny Depp, passando per Colin Farrell, finendo a George Clooney, fino addirittura a Briatore. devo dire, uno degli stampi più tragici degli ultimi anni. Insomma, gli uomini non escono molto bene da questa descrizione. Beh, insomma, ci sono loro da una parte e c'è Nicola dall'altra, che invece riequilibra la situazione, perché è un uomo ferito, è un uomo che è alla ricerca, come dire, di una soluzione affettiva nella sua vita. Grazie a Diego De Silva, ora in libreria con Mancarsi, pubblicato da Einaudi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.